Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Le 8:34 minuti, una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Si può fare di Radio 24 e un buongiorno anche a te Carlo, buongiorno, buongiorno. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come vanno le cose nella tua ridotta di Milano? Ma vanno bene, è stata una bella settimana, anche se trovo che faccia un po' freschino, ma forse meglio così con tutti i problemi che potrebbe portare l'aria condizionata, che abbiamo l'ansia che non faccia bene. E la settimana quindi è andata bene, poi da stanotte, da stasera, da ieri sera insomma, siamo tutti un po' in ansia per le condizioni di Alex Zanardi, che forse è il più celebre si può fare nazionale, un si può fare in carne e ossa, che ha avuto un incidente, ha fatto un incidente, sta lottando fra la vita e la morte, e noi siamo assolutamente con lui, è stato più volte nostro ospite e lo abbracciamo a distanza senza disturbarlo. Sappiamo che la notte è stabile, ma che resta molto grave. Sicuramente è un tema che oggi su tutti i quotidiani, perché lui è un si può fare vivente non solo per noi ma per tutta Italia appunto, ed è molto amato, molto in questo momento molto pensato, come appunto stiamo facendo noi. Io devo dare qualche avviso ai nostri ascoltatori. Allora, oggi non funziona per motivi a me sconosciuti il WhatsApp, e quindi chi vuole mettersi in contatto con noi dovrà farlo necessariamente via SMS per commentare quello che via via andremo dicendo. Il numero è sempre lo stesso, 349-238-6666, quindi via SMS oppure via Facebook, oppure volendo anche telefonare 800-24-00-24. Oggi tra l'altro è giornata di quiz, quindi si può partecipare, si può portarsi a casa un libricino da leggere in spiaggia a questo punto, o in montagna, visto che abbiamo maggiore libertà, no? Certo, giusto, giustissimo. Allora, buone notizie della settimana, Carlo, cosa ti ispira? Io più che una buona notizia ho una curiosità che vi leggerò subito dopo, ma intanto a te. E io guardo, ho fatto un po' il giro contrario, devo dire, ho letto di una notizia che appariva buona e poi invece mica tanto. Nel testo della legge sulla giustizia, che è ora la Camera, la Lega è riuscita a inserire un articolo che istituisce un blocco per tutti i contenuti inappropriati per i minori. Il senatore Pillon, che è l'artefice di tutto ciò, in realtà più per creare un problema alla maggioranza che fra tempi tecnici e cavilli rischia ora la crisi, comunque ha affermato: ho regalato all'Italia un filtro automatico che si applicherà su ogni tipo di dispositivo per bloccare tutti i contenuti violenti, pornografici o inadeguati per i minori. Che letta così può anche sembrare una buona notizia, ma la legge prevede che il blocco sia a monte per tutti i contenuti ritenuti non idonei, e se qualcuno volesse vederli, solo se adulto, può farlo unicamente con espressa richiesta scritta, come se fosse un intero paese di bambini che devono chiedere il permesso al loro sovrano. Ma soprattutto, di quali contenuti stiamo parlando? Perché se si parlasse, che ne so, della pornografia illegale, quella è illegale, quindi è ovvio che non si parla di quella. Chi decide cosa è adeguato ai minori e cosa no? Non so, le tette no, ma Salvini che parla con chiunque a 3 centimetri di distanza senza mascherina, sì? È educativo? O no anche quello, come tutti i contenuti razzisti, omofobi, contro la morale? La sirenetta di Copenaghen, in quanto nuda, cancellata da tutti i siti? Prevedere il David di Michelangelo, siccome ha il birillo di fuori, tocca mandare una lettera scritta? Dove inizia la pornografia e soprattutto dove inizia ciò che Pillon o chi per lui ritiene sbagliato per mio figlio? Intanto vorrei tranquillizzare Pillon, perché in Italia chiunque può attivare innumerevoli parental control per cui vieta o inibisce ai figli ciò che ritiene inopportuno. Ma siccome la maggioranza del paese non è né minore né genitore di figli minori, lo Stato non ne può far divieto a tutti, anche perché ci terrei a ricordare che nel nostro paese laico la pornografia non è vietata, come invece dovrebbe esserlo la censura di Stato. L'accesso però a materiale pornografico in età troppo giovane è certamente un problema da affrontare, ma si fa con l'educazione, non col divieto, che è ipocrita perché si sa che funziona pochissimo. Si fa andando nelle scuole a insegnare tutto ciò che proprio il signor Pillon e la Lega vorrebbero vietare: l'educazione sessuale, le differenze fra transgender, gender transessuali e travestiti, facendo entrare le associazioni LGBTQ a parlare di omofobia. Comunque, siccome siamo Si Può Fare, troviamo anche il positivo e vi segnalo cosa hanno fatto in Nuova Zelanda. Lì c'è un divertentissimo spot che potete vedere su internet in cui ci sono due attori porno che completamente nudi vanno a casa di un ragazzino, apre la porta la madre e loro candidi si presentano. Scusi, sa, suo figlio ci guarda spessissimo sul telefonino, sulla PlayStation o anche sul PC, chiuso in bagno o in camera sua. Volevamo spiegargli a suo figlio che nella vita reale il sesso non è quella cosa che noi due facciamo nei filmini dove non c'è consenso, arriviamo subito al dunque senza preliminari, senza parole dolci, senza nessun sentimento. Ecco, così la madre capisce che deve parlare con suo figlio e non spaccargli il computer sulla testa urlando «vietato dallo Stato». Lo sai che era uno dei temi che io avevo letto proprio nella rassegna stampa questa mattina, con una serie di pareri negativi o comunque sulla stessa linea, cioè chi definisce, no, cos'è appropriato e cosa non lo è, chi controlla il controllore, tra l'altro, e certo, la chiosa anche di come questi tentativi di introduzione di leggi simili sono già stati fatti, ad esempio negli Stati Uniti e nel Regno Unito, negli dove Stati sono Uniti. Esatto, bloccata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, sospesa a tempo indefinito nel Regno Unito. In Italia già è abbastanza forte il movimento contrario, o comunque di coloro che fanno notare che siamo nei limiti alla libertà di espressione e di accesso alle informazioni. Ad esempio, diceva Stefano Quintarelli, che è un esperto di questioni legate alla rete, che viene oggi intervistato su Quotidiano Nazionale. Quindi, per chi vuole già andare a leggere qualche parere, ecco, c'è Quotidiano Nazionale con alcune interviste. È molto bello l'esempio. È molto bello l'esempio negli Stati Uniti, perché una delle motivazioni per cui il tentativo di questa legge è stato subito bloccato è che hanno detto: scusate, ma ci fu una famosissima intervista a Jimmy Carter, se non ricordo, prima che diventasse presidente, che venne pubblicata su Playboy. Ora, quell'intervista con queste norme non si potrebbe leggere, perché sei all'interno di un contenitore che è Playboy, che ovviamente non è adatto ai minori. Quindi c'è un problema molto evidente, ma insomma sappiamo tutti che in realtà è anche un po' più un tentativo di far andare in crisi la maggioranza, perché è stato infilato tra l'altro in un decreto che si occupa di intercettazioni, quindi non è che c'entri moltissimo, ma comunque staremo a guardare, vigileremo. Precisamente, e magari mentre stiamo a guardare, ad aspettare, sai che cosa volevo dire? No, la curiosità che ho trovato sulle pagine del Sole 24 Ore, che è l'unico che può andare a scovare certe cose, insomma, i giochi di carte, e in particolare un'azienda storica che si chiama Modiano a Trieste, beh, hanno vissuto un periodo d'oro durante il lockdown, non ha mai chiuso, ovviamente ha lavorato tantissimo, anche perché tanti hanno ordinato online carte, arte, altri giochi. E ho scoperto, leggendo questo articolo, in cui ovviamente si fanno numeri che riguardano la produttività, le ore di lavoro, le tutele dei lavoratori in questo periodo, insomma, ho scoperto che è intramontabile il mercato dei tarocchi, e fin qua ci siamo, che va tantissimo negli Stati Uniti, e che invece i cinesi amano le carte in plastica 100% PVC. Da noi vengono un po' guardate, no? Mercato di nicchia, un po' strano, così invece in Cina vanno per la maggiore, è considerato un prodotto di qualità superiore. Quindi ciascuno il suo, ecco, ognuno ha le sue passioni, e la Modiano si adatta ed è uno dei leader mondiali in questo settore e sta nella nostra bella Trieste. Insomma, a me ha fatto piacere scoprirlo e anche mi è sembrato curioso, volevo condividerlo con te e con i nostri ascoltatori. Allora, noi tra sono poco molto felice, perché mi piacciono moltissimo le carte Modiano. Sì, poi dopo ogni anno loro ne fanno nuove edizioni, d'autore, no? Sì, con sì, disegni particolari. Dicevi anche a me non piacciono quelle di plastica, ma ci sono appassionati. Si disinfettano, giocatori però di poker, di quelli che aprono un mazzo nuovo ogni 5 minuti. Si possono disinfettare meglio, ecco, sicuramente delle altre. In questo periodo vero, potrebbe anche andare bene. Oh, queste sono tutte notizie vere, quelle che vi abbiamo dato, non fake news come quelle di cui parleremo tra poco dopo la viabilità. C'è un bel libro molto divertente tra fake news, tra scienza e fantascienza, dove c'è una parte serissima e una parte invece di fake news vere e proprie, costruite, inventate a tavolino, molto divertenti, molto simpatiche. Ne parleremo tra poco. Io delle ultime fake news che ho sentito ho in mente quella dei leoni sguinzagliati in Russia contro il Covid. non solo era falsa, ma evidentemente non sono serviti, anche se fosse stata vera, perché poi il Covid alla fine è arrivato anche lì. Se voi ne ricordate qualcuna anche carina, perché i felini anche perché i felini, in realtà, a differenza dei cani, e sto anch'io anticipando un argomento di dopo, rischiano di prenderselo il Covid. Invece i cani pare di no, e quindi c'è tutta la questione di riescono ad annusare o meno le tracce di Covid, ma ne parliamo dopo. Dopo la viabilità, tra poco. Si può fare. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus-free. Dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni e aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cento 24 00 24 per partecipare al nostro quiz della settimana, ma anche magari per condividere con noi qualche divertente fake news nella quale vi siete imbattuti nell'ultimo periodo. Di fake news parliamo, come dicevo, a proposito di un volume appena uscito, Fake News tra scienza e fantascienza, e a questo titolo si aggiunge il sottotitolo Manuale semiserio di sopravvivenza contro le bufale, che è stato scritto da Francesco Pira, professore di comunicazione e giornalismo presso l'Università degli Studi di Messina, e Raimondo Moncada, giornalista, scrittore, attore amatoriale, così precisa il comunicato. Ma comunque, Francesco Pira, buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Allora, io mi sono molto divertita nel leggere, cioè, mi sono un po' rammaricata nella prima parte dove lei affronta la questione in maniera scientifica, poi mi sono molto più sollevata con i testi di Raimondo Moncada, che si è divertito proprio a inventarne, a partire da qualche spunto che ha trovato in rete, a scrivere veramente delle fake news, che magari però qualcuno potrebbe anche credere vere, perché sono scritte proprio bene, giornalisticamente inappuntabili. Voi come siete? In realtà siamo come Ciccio Ingrassia e Franco Franchi. Io cerco di fare Ciccio Ingrassia, cerco di portare un po' alla serietà, e lui invece è deflagrante, perché è riuscito a inventare le più grosse dei bufalari, insomma. Dimentica una sigaretta accesa nel cranio, diventa un luminare, ecco, per esempio il titolo potrebbe essere questo. Ma sono tanti. Posso fare una premessa. Io ho sentito prima quello che avete detto a proposito di questa proposta di legge. Io da anni mi batto, sono andato in centinaia di scuole a parlare di cyberbullismo. È una battaglia che dobbiamo fare, una battaglia di civiltà, e questi pezzetti di legge o finte leggi non servono a nulla. C'è già una legge sul cyberbullismo, una sul revenge porn, e non abbiamo ancora risolto nulla. Quindi vi ringrazio per quello che avete detto, perché è da lì che si parte. Cioè, è la stessa battaglia che bisogna fare per le fake news, cioè cercare di fare cultura, di irradiare conoscenza per permettere a tutti noi di comprendere se una notizia è vera o falsa. L'85% degli italiani non lo capisce. Ma quale strumento è necessario? Condivido molto. Scusate. Condivido molto le sue parole, la ringrazio. Grazie. Quale strumento è necessario, diciamo? Che cosa dobbiamo fornire agli italiani perché capiscano, o comunque si domandino prima di accettare pedissequamente, una notizia? Ma guardi, il tema è molto complesso perché in realtà noi abbiamo pensato sempre che le fake news sono le bufale che mettono in giro dei burloni per cercare di avere più like, ma quando il COPASIR, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza, certifica che durante la pandemia ci sono stati enti statuali che hanno deciso di danneggiare attraverso le fake news l'Italia, la Spagna e la Germania, evidentemente siamo di fronte ad un fenomeno che è macroscopico e non possiamo continuare a combatterlo con le freccette come stiamo facendo noi. Quando io parlo di queste cose da tre anni, faccio conferenze, ho scritto dei libri, adesso abbiamo provato con l'ironia a cercare di parlare seriamente di questo tema, la risposta che mi si dà: facciamo una legge, quando si sa perfettamente che altri paesi, anche europei, hanno tentato ed è stato fallimentare, perché di fronte a un problema che è mondiale non possiamo sicuramente con una legge nazionale fermare questo fenomeno. Carlo, non so se vuoi intervenire, perché visto il ritardo di oggi ti lascio sempre un secondo in più, diciamo. Sì, no, volentieri, sono molto d'accordo con le parole di Francesco Pira. Il dubbio che le volevo chiedere riguardo il libro, che appunto, come dicevamo, ha una parte più comica e divertente e una parte invece più sulle fake news, siccome sono molto d'accordo con le parole che dice, mi chiedevo se non c'è un po' il rischio, mischiando questo tipo di cose, di fare un po' di confusione, di depotenziare la gravità delle fake news. Perché giustamente, come sta dicendo lei, una fake news che è presente nel vostro libro, tipo gli italiani imparino a fare sacrifici, detta da Gentiloni nel 2016, falsità, è ovvio che è un'operazione politica per indebolire un politico. Invece le balene a Venezia, piuttosto che delle fake news che sono in realtà dei giochi, sono delle gag che sono sempre esistiti, degli scherzi, delle finte notizie, sono tutt'altro, e metterle sullo stesso piano non si rischia di diciamo relegare il tutto nell'ambito della goliardia. Ma guardi, noi l'abbiamo provato a scrivere, quello delle fake news è un mix dirompente di assurdità, tragedia sociale, comicità, ci fanno piangere, ci fanno ridere, c'è da preoccuparsi e quindi va trovato un vaccino efficace. Noi non proponiamo un vaccino che abbia dei costi per la collettività, però bisogna aprire gli occhi a una fetta che è sempre più ampia di società, che è diventata terrapiattista, complottista, addirittura senza più vista. Se pensiamo alle fake news in questo periodo dell'emergenza coronavirus, dall'elicottero che sporca i panni con il disinfettante, alla vitamina C che fa passare, che combatte il virus, insomma ne abbiamo sentite di tutti i colori, alle dirette dall'interno degli ospedali dove ci spiegavano che i morti erano più di quelli del colera, insomma abbiamo sentito di tutto. Ora è molto difficile, perché le fake news, diciamo quelle che vengono dalla grande industria, sì? È molto vero, no, mi incuriosisce, perché l'elemento di novità è che una delle fake news che lei ha appena detto, tipo iniettarsi il disinfettante, viene dal presidente degli Stati Uniti, quindi è cambiato forse qualcosa, non può essere uno scherzetto fatto da un gruppo di giovani che fa una finta foto, è il presidente degli Stati Uniti che dice... La notizia, esatto, è verissima, cioè l'ha detto Trump quella cosa, poi è stata riportata dai giornali. C'è un rapporto anche molto complesso con il mondo dell'informazione, perché io ho parlato in un mio precedente libro, ho ripreso un po' questo concetto, c'è questa voglia di barbarazzare il giornalismo, cioè di farlo diventare tutto infotainment, di lavorare sull'emotivismo e quindi facendo parlare la pancia delle persone e non il cuore e l'anima delle persone. Questo certamente cambia tutto, perché significa rinunciare a dei valori che sono fondamentali. E poi c'è anche l'altro tema, voi penso lo stiate vivendo tutti i giorni, che è quello della disintermediazione. Ormai ognuno va sui social e scrive quello che gli pare, condivide quello che gli pare, e soprattutto il 65% degli italiani non cancella le notizie false, anche se viene dimostrato il contrario, cioè che quella notizia è completamente destituita di fondamento. Chi ha condiviso una notizia falsa continua ad essere convinto. È proprio così, ed è un grande problema ed è anche una grande questione che noi come giornalisti dobbiamo tenere presente ed affrontare, diciamo, perché a volte ci piace spettacolarizzare, diciamo, le notizie, a quel punto lì però scadiamo è molto facile tornare indietro, perché oggi ci spingiamo sempre più verso un giornalismo che viene animato dai like. Viene animato dai like, e quindi già negli Stati Uniti i giornalisti vengono pagati sulla base di quanti like riescono ad ottenere, e quindi è molto difficile riuscire a fare un passo indietro, almeno che non ci sia consapevolezza da parte dei giornalisti e degli editori di garantire prodotti di qualità, magari a pagamento, e lasciare quelli gratis con il rischio del tumulto fake news. Però precisamente. Però non è facile. No. Professore, io la ringrazio molto per questo collegamento, Francesco Pira, Fake News tra scienza e fantascienza, manuale semiserio di sopravvivenza contro le bufale. Adesso c'è GR24, ci ritroviamo subito. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Ciao, siamo le radio italiane. Tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto. Alla fine dell'estate celebreremo insieme, con un evento speciale, la storia della radio e della musica italiana. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore? I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cioè i nostri ascoltatori, ricordo che il 349-238-6666 vale solo per SMS oggi, WhatsApp sono fuori uso, il numero verde 800-24-00-24 invece funziona regolarmente, potete chiamarci per partecipare al quiz. Noi siamo prontissimi, vero Carlo? Tu hai anche tu sotto mano il testo, quindi... appena vorrete, ho tutto sotto mano, sono pronto. Esatto, noi siamo prontissimi e ci prepariamo anche magari alle prime cene all'aria aperta, perché no, magari al lume di candela, perché no, magari in mezzo a vigne e prati, per esempio. A me parrebbe un'ottima occasione, sempre che il tempo lo consenta, no? Martina, certo, Beggiato, che sì, assolutamente. Martina Beggiato, buongiorno, per essere con noi, la ringraziamo. Martina Beggiato, c'è? Sì, buongiorno a tutti. Fondatrice di Soluzione20.it, responsabile delle cene in vigna, che mi sembra una cosa bellissima. Tra l'altro in un'area d'Italia che noi abbiamo nominato per questioni di Covid negli ultimi mesi, perché stiamo parlando di Vo, siamo in provincia di Padova, ma insomma qui invece si riprende fortunatamente una tradizione che è quella delle cene in vigna. Come funzionano? Il format Finestre sui Colli, Cene in Vigna sui Colli Ugani, in realtà nasce 4 anni fa ed è partito proprio Vo 4 anni fa. Per cui quest'anno ho voluto riprendere nuovamente questo format, che ormai insomma accoglie numerose persone durante l'estate tra le cantine dei Colli Ugani. Ho voluto riprenderlo ripartendo proprio da uno dei paesi più vicini a quello dove vivo io, che è appunto Vo Euganeo. Non tanto perché è stato rinomato e nominato quest'inverno e durante questa primavera numerose volte. No, certo, volte, perché c'era più già per questa... un discorso di affezione proprio... si trattava proprio di concepire una ripartenza proprio come la prima mia partenza 4 anni fa e quindi sono stata accolta dalla cantina Vignaroda e ripartiremo con vista. Che quindi sarà la cantina Vignaroda sarà quella che ospiterà questa cena in vigna la settimana prossima. La prima data che è il 26 di giugno, in realtà è già sold out. Ma è proprio in vigna, cioè nel senso che i tavoli sono messi tra i filari. Sì. Che bello. Sì. Tra i filari. E in quanti sono si delle... fa questa cena? Quest'anno a numero ridotto. Abbiamo dimezzato completamente i posti, 40 persone, 40-50 persone. È diventato esclusivo proprio. Perfetto. Super esclusivo, ma devo dire che ne vale la pena anche perché una delle caratteristiche di questo format è il social eating e parlare di social eating in era di distanziamento sociale non è proprio semplice. Ma cioè, cos'è il social eating? Cosa vuol dire? Vuol dire mangiare vicino a persone che magari non si conoscono. No, la roba degli altri anche no, anche perché effettivamente si tratta di un ristorante a cielo aperto. Io lo chiamo un ristorante volante con servizio all'italiana, per cui in realtà ci sono tutti i crismi per vivere un'esperienza all'aria aperta, però simile appunto ad un locale, ad una ristorazione. Chiaro che cambia un po' la location. A noi sembra molto bello. A noi sembra molto bello soprattutto perché ci immaginiamo che le persone siano distanziate dai filari di uva invece che dal plexiglass. Esattamente. E poi devo dire che il social eating si rende comunque possibile anche in questo periodo perché il buon vino lega sempre gli animi e quindi diciamo che secondo me sarà possibile stringere relazioni anche a distanza. Però quindi... troppo vino no, perché sennò poi si stringono troppo le relazioni, ci si avvicina per brindare, non va bene. No, staremo poi attenti. Si rischia che si parte in vigna e si finisce a festeggiare la Coppa Italia. Va bene, questa è la prima data, giusto? Poi ce ne saranno altre sempre nella sì, zona. È un bel tour sui Colli Ugani, parte il 26 appunto a Voda Vignaroda. La settimana successiva, il 4 di luglio, saremo con la cantina Calustra di Cinti Ugani in un anfiteatro, si chiama l'Anfiteatro del Venda, un luogo spettacolare. Per poi passare al 10 di luglio in una cantina villa, quindi tra antichi filari, e poi arriveremo in un'altra villa, tra i filari di un'altra villa veneta, sempre a Torreglia, Villa dei Vescovi, e insomma fino al 22 di agosto faremo un bel tour, esattamente. Molto bene, allora complimenti, in bocca al lupo, divertitevi e state bene ovviamente con le cene in vigna. Abbiamo una piccola pausa per la viabilità, grazie a Martina Beggiato, ci troviamo subito dopo. Si può fare. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ebbene sì, è il momento del quiz, ci ha chiamato Patrizia dalla provincia della Spezia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Patrizia. Buongiorno. Si ricorda come funziona, vero? Noi leggiamo un testo con tre possibili risposte. Allora, seguo sempre, lo so. Benissimo, allora vado. L'università di Virginia Tech ha un nuovo dottore onorario, il dottor Moose, che è stato premiato per il suo impegno nel sostenere gli studenti nei momenti più delicati della loro vita. Si tratta però di un dottore molto particolare. Perché? Risposta numero uno, perché il dottore è un labrador dal pelo chiaro. Perché il dottore è un robot parlante? Risposta numero 3, perché il dottore è un bambino di 7 anni. Dunque, io direi un robot parlante. Un robot, sentiamo un po'. La seconda. Purtroppo no, signora, è un labrador che diventa un dottore onorario. Il cane è stato premiato per il sostegno agli studenti universitari. Ci spiace molto, ma la ringraziamo di aver chiamato. Grazie a voi. Davvero, buona giornata Patrizia, grazie. A parlare di cani, non di labrador magari, ma di cani. Però prima dei cani abbiamo le cimici. Oggi parliamo tantissimo di animali. C'è questa cimice asiatica di cui tanto sentiamo parlare, che sta creando non pochi problemi, soprattutto al momento nel nord Italia, ma le questioni iniziano anche al sud, nei campi del centro-sud. Ebbene, si sta sperimentando un'arma di distruzione della cimice molto particolare, che è la vespa samurai. E quindi insomma avremo cimice asiatica contro vespa samurai. Di questa questione, che così fa sorridere ma che in realtà è molto seria, parliamo con Roberto Moncalvo, presidente della Coldiretti Piemonte. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Anche di Coldiretti in passato noi ci siamo conosciuti, insomma, a vari eventi, ma non pretendo che lei se ne ricordi, non ha alcuna importanza tra l'altro. La questione cimice asiatica, davvero, è una questione che vi sta dando molti grattacapi, no? Che cosa fa la cimice asiatica? È una questione davvero complicata, perché credo mai fosse accaduto che un insetto alieno danneggiasse così tanto le coltivazioni italiane. Pensate che nell'ultimo anno ha creato danni alle nostre, ad almeno 48.000 aziende in Italia per 740 milioni di euro, perché è in grado di colpire e danneggiare oltre 300 specie vegetali. Parlando di colture agricole, parlo di frutta, e quindi dalle pere alle mele, alle pesche, le nettarine, il kiwi, il ciliegio, le albicocche, le susine, i piccoli frutti, insomma tutta la frutta, le nocciole con grande forza, le olive, la soia, il insomma, mais, un po' tutto quello che produciamo alla fine. Un po' tutto ciò che produciamo. Per questo è un insetto davvero davvero pericoloso. Non è la prima volta che un insetto alieno genera danni alle colture in Italia, ma la cimice asiatica davvero per la grande entità dei danni è davvero un evento senza precedenti. Pensate che nel solo Piemonte, che ma una delle regioni più colpite, lo chiamiamo alieno nel senso che è estraneo all'Italia, perché detto così, cioè, non vorrei, già c'è tutto il problema degli asiatici che uno è sempre spaventato, non vorrei che sembrasse che arrivino da un altro pianeta. No, esattamente così, un insetto viene definito tecnicamente un insetto alieno perché è un insetto che non si trova naturalmente nella biodiversità italiana degli insetti. Nell'ecosistema quindi nostro. Non arriva dal nostro ecosistema, arriva evidentemente collegato alla globalizzazione del traffico delle merci, ovviamente delle persone, questo è uno degli effetti, ahimè, negativi della globalizzazione, e proprio perché un insetto alieno non trova antagonisti naturali in natura. Per cui fino ad oggi la natura, diciamo, l'ecosistema italiano non è stato in grado di creare un freno a questo insetto. e nemmeno i trattamenti fitosanitari hanno un effetto, diciamo, frenante su questo insetto. Ecco perché la prospettiva della lotta biologica è davvero l'unica prospettiva che noi abbiamo, cioè trovare un insetto che sia in grado di frenare l'evoluzione della cimice asiatica. E questo insetto è proprio la vespa samurai. Esatto, che anche lei viene da Oriente, che quindi tutto sommato anche è attrezzata. Quindi, no? Anche lei viene da Oriente, è attrezzata nel combattere la cimice asiatica ed è un insetto, ovviamente, se sentiamo la parola vespa e gli aggiungiamo il termine samurai, magari possiamo avere paura che sia pericolosa per l'uomo. Ovviamente non lo è. È innocua per l'uomo, è innocua per gli animali, comprese le api, che ovviamente sarebbero, insomma, sono insetti da tutelare in modo particolare per il loro ruolo fondamentale che hanno sull'impollinazione. Ma di tutto, è innocua anche per le zucchine, perché non vorrei che la cimice asiatica colpisce pere, mele, pesche e kiwi e invece la vespa samurai, zucchine, pomodori e... No, assolutamente no. Ovviamente sono state fatte tutte queste verifiche. Poi la vespa samurai è un insetto molto piccolo rispetto alla cimice, ma è in grado di colpire la cimice asiatica fin dal momento in cui diciamo le uova si schiudono le uova, e quindi la cimice asiatica è ancora molto piccola nei propri primi stadi di evoluzione. Negli ultimi giorni ci sono stati i primi lanci in Italia, in particolare nelle regioni, in quasi tutte le regioni del nord, ahimè Piemonte escluso, e quindi dall'Emilia Romagna al Friuli Venezia Giulia, la Lombardia al Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento hanno già provveduto ai primi lanci, che si fanno proprio nel momento in cui... Come mai Piemonte escluso? Piemonte è stato più lento e speriamo che nei prossimi giorni, insomma, si metta al passo delle altre regioni, perché ovviamente i lanci sono possibili in tutta Italia, come avete ben detto voi, è un problema principalmente del nord Italia, ma non più solo del nord. Oggi abbiamo dei primi focolai evidenti in Campania sul nocciolo, così come nel Lazio, e in Puglia sull'olivo, per fare degli esempi, insomma. Quindi è ovvio che i primi lanci avvengono nelle zone più colpite, ma mano a mano anche le altre regioni si strutturano per evitare di arrivare a percentuali di danni altissime come quelle che ci sono state negli anni passati nelle regioni del centro-nord. Tenga conto che in Piemonte abbiamo iniziato i primi monitoraggi con i tecnici di Coldiretti nel 2013 e fino ad oggi, nonostante i tantissimi tentativi, non si è ancora trovata una prospettiva, diciamo, utile né nell'ecosistema italiano, quindi attraverso la lotta biologica con un insetto italiano, né con i trattamenti fitosanitari, che comunque sono invasivi e sono pesanti dal punto di vista poi ambientale, quindi se è possibile meglio evitarli. La prospettiva della vespa samurai è veramente la molto molto attesa in tutte le campagne, e non si prevede che abbia che generi un problema, insomma, che anche quello diventi una specie aliena che va a danneggiare le nostre vespe. Questa vicenda, diciamo, è stata oggetto di studio per molto tempo, il Ministero dell'Ambiente ci ha messo molti mesi ad arrivare a dare l'ok, a mandare il decreto, sì, per dare l'ok, proprio perché tutti questi studi erano evidentemente necessari. Teniamo conto, appunto, che inizia, diciamo, un esperimento che in realtà su cui c'è grande aspettativa, su cui ci sono stati molti studi, che ripeto è innocuo per l'uomo, per gli animali e per le specie vegetali che noi vogliamo andare a proteggere dai danni della cimice asiatica. Ci vorrà tempo, perché la natura richiede tempo per poter riportare un equilibrio. Per questo è importante, ed è una richiesta che abbiamo già fatto al governo e alle regioni più coinvolte, più colpite, più volte, è necessario stabilire degli indennizi per le imprese anche in questo periodo transitorio, perché comunque i danni saranno ancora alti. E tenete conto che, ad esempio, sulla frutta, che è uno dei settori più colpiti, la cimice sta iniziando a lavorare anche quest'anno in una situazione di frutteti dove un frutto su tre è già perso per danni da maltempo, dal gelo alla siccità che c'è stata nei primi mesi dell'anno, arrivando poi alle grandinate violente che a macchia di leopardo stanno colpendo molte zone del nostro paese. Adesso parlando di e frutta, in più adesso per esempio, c'è il problema della raccolta. Stavo per arrivando anch'io a quello. Ah, scusami. E poi ci sarà il problema della raccolta, ovviamente, che è un problema sicuramente grande quest'anno per via della necessità di manodopera che per via dell'emergenza Covid, insomma, soprattutto la manodopera straniera che era diciamo dal punto di vista numerico molto importante in alcuni, soprattutto in alcuni distretti, penso a quello del Saluzzese in Piemonte. Anche la vicenda della raccolta è una vicenda molto delicata quest'anno. Devo dire che il passaggio alla fase 2 e la, diciamo, l'apertura delle frontiere con molti paesi sta un attimino alleggerendo una situazione che era invece si pronunciava molto complicata. D'altro canto anche una rinnovata disponibilità di moltissimi italiani che magari hanno perso il lavoro o comunque vogliono arrotondare e mettendosi a disposizione per la raccolta sta creando anche nuovi rapporti di lavoro e nuovi equilibri sui territori da questo punto di vista, quindi diciamo anche la parte della raccolta resta comunque molto delicata e da tenere molto sotto controllo in questo momento. Tenete conto che se il governo facesse una grande semplificazione sul voucher agricolo, noi potremmo fare in modo che moltissimi percettori di reddito di cittadinanza o di altri ammortizzatori sociali potrebbero avere contratti e quindi possibilità di lavorare in modo regolare in agricoltura per alcune settimane durante la raccolta senza perdere però il loro il loro sussidio, che evidentemente nessuno vuole mettere a rischio, da questo punto di vista manca proprio questo. In realtà ci ha dato un sacco di buone notizie, perché il fatto che le frontiere riaperte stiano calmierando quel tipo di emergenza, ne siamo molto contenti. Un po' il rischio è che una pesca costi 28 positiva. Euro fra un mesetto, è così? Come dicevo, perso, non l'ho sentita. Dicevo, se il rischio fra il fatto che un frutto su tre è preso dalla cimice e abbiamo difficoltà nella raccolta è un aumento sostanziale dei prezzi della frutta quest'estate. Il rischio è esattamente questo. Noi purtroppo già nel pieno dell'emergenza coronavirus abbiamo registrato non poche speculazioni da questo punto di vista, perché ciò che è accaduto finora e che molto spesso i prezzi sono aumentati per i cittadini, per i consumatori, ma sono paradossalmente calati per i produttori. E quindi da questo punto di vista c'è una serie di, come dire, di osservazioni che stiamo facendo e di messa in mora anche di realtà della filiera agroalimentare che si stanno comportando male, stanno speculando. Questo è un fenomeno molto, ahimè, diffuso su settori come ieri mi hanno offerto mi hanno chiesto per un chilo di ciliegie 18 euro e mi sono un po' indignato. Bisogna indignarsi due volte, perché bisognerebbe poi fare l'altra domanda: ma quanti soldi avete dato al produttore di quelle ciliegie? Vedrete che la differenza fra quei 18 euro e il prezzo dei produttori sarà molto alta, e questo è uno dei problemi principali che fa sì che l'agricoltura in Italia, che potrebbe essere ancora molto più performante, riprendersi aree di territori che negli ultimi decenni sono state abbandonate proprio per le tensioni sui prezzi. Tutto questo si potrebbe fare generando nuovi posti di lavoro anche, ma è opportuno, insomma, riportare sempre il giusto prezzo ai produttori. C'è spazio per poterlo fare senza aumentare i prezzi ai cittadini, ma semplicemente con alcuni accorgimenti, alcune norme anche europee che possono essere recepite in Italia, come la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, per fare in modo che i nostri agricoltori siano davvero tutelati e possano fare un mestiere che è fondamentale per le nostre comunità. Ce ne siamo accorti in modo particolare nell'emergenza Covid, no? Il cibo non è mai mancato, anche perché i nostri agricoltori hanno continuato a lavorare come peraltro natura necessita, sia quando si tratta di animali sia quando si tratta di vegetali. Precisamente. Allora grazie molte, il presidente della Coldiretti Piemonte, Roberto Moncalvo. Con lui abbiamo parlato di cimici, di vespe e di molto altro. Come avete sentito, buon proseguimento. Proseguimento a voi, buona giornata. Una piccola pausa e poi finalmente parliamo di cani. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Seconda concorrente della giornata è Maria, da chiamato dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Maria, tutto bene? Come va? Buon sabato. Bene, grazie. Allora, ecco qua la domanda per lei. Bordalo II, un artista portoghese, le cui installazioni si possono ammirare anche a Roma e Torino. Per le sue opere non utilizza colori e pennelli. Ma che cosa? Sposta numero 1, utilizza alghe marine essiccate che, ossidandosi, assumono i colori dell'arcobaleno. Risposta numero 2, utilizza i rifiuti trasformandoli in animali variopinti e giganteschi. Risposta numero 3, utilizza muco di scimmia raccolto a mano solo nelle notti di luna piena. Allora, le alghe? Lei dice le alghe? Oh, peccato, sono stati gli animali enormi di spazzatura. sì. Esatto. Quindi lo sapeva. È vero, è un artista che trasforma i rifiuti in opere d'arte per salvare la natura e per salvare anche gli animali. Allora, quindi, io sto guardando l'arte del riuso. Esatto, le foto di queste opere sono bellissime, vorrei vederle dal vivo perché poi non so, però se vi capita Bordalo, non so se si dice tra l'altro con l'accento su Bordalo secondo, quindi scritto in numeri romani, guardate le foto, sono bellissime davvero. Maria, grazie molte grazie, per averci chiamato. Arrivederci. Grazie mille, buon sabato. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Parliamo di cani che fiutano il coronavirus, ma più in generale, visto che questa ricerca è ancora acerba per ovvi motivi, di cani capaci di fiutare anche alcune specifiche malattie. Ne parliamo con Mariangela Albertini, che è docente della Università Statale di Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria. Mi sa che ho bisogno di un bicchiere d'acqua. Buongiorno, professoressa. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, sì, appunto, l'abbiamo letto di questa ricerca, no, sui cani che sarebbero in grado di fiutare il coronavirus. È ancora acerba, no, come ricerca, siamo agli inizi su questo. Sì, evidentemente sì, ci sono vari gruppi in realtà ormai nel mondo che stanno lavorando su questo. Alcuni utilizzano campioni di urina, alcuni utilizzano campioni di sudore, alcuni utilizzano campioni di saliva. È uscito recentemente un lavoro prodotto dalla facoltà di Alfort, che è vicino a Parigi, dove appunto utilizzano il sudore. Però io insomma ancora voglio andarci un poco di piedi di piombo su questa cosa, perché voglio prima capire bene insomma questo campione che utilizziamo in che condizioni è. Perché non voglio neanche esporre né gli operatori né i cani a una carica virale. Beh, certo, infatti però questo ci domandavamo. Adesso lei mi dice già un campione. Noi pensavamo nella nostra ignoranza che il cane venisse avvicinato direttamente alla persona e mi sembrava abbastanza assurdo. Beh, no, questo verrà fatto una volta che i cani... Ecco, l'idea è questa, no? Che una volta che i cani sono addestrati potrebbero essere utilizzati magari all'interno degli aeroporti, no? Come ci sono quelli che cercano la droga. Potrebbero esserci quelli affiancati dalla persona che prova la temperatura ai passeggeri, potrebbe esserci un cane di fianco che percepisce la presenza di virus in qualche persona, magari asintomatica. No? Quindi c'è un odore del virus? Non è un odore del virus, è un odore, diciamo, delle cellule infettate dal virus in cui cambia un po' il metabolismo, e queste cellule producono dei composti organici che passano poi nelle secrezioni, nei liquidi biologici, quindi possono essere presenti appunto nel sudore, nella saliva e quant'altro, e chiaramente danno un odore particolare all'individuo che evidentemente noi non possiamo sentire, ma il cane con il suo olfatto straordinario riesce a percepire. È ormai attestato, no, che i cani siano in grado, ma non, ecco, tutti i cani, sì, o alcuni cani tipi, alcune razze in particolare? No, diciamo che non c'è una razza particolare, i cani sono tutti dotati di un olfatto estremamente elevato, cioè rispetto a noi hanno una quantità di recettori olfattivi che è enormemente superiore rispetto alla nostra, quindi sono in grado di recepire odori che noi neanche riusciamo a immaginare. Quindi questo è provato. Tutti i cani, poi chiaramente c'è il cane che ha più voglia di collaborare con l'uomo e quello che invece non ha tanta voglia, magari è più specializzato a fare altre cose, a fare lavori di diverso tipo, e invece ci sono quelli che, a cui piace di più, diciamo, fare la ricerca, no? Anche loro hanno i loro gusti sulle attività da svolgere. Mi sembra corretto. Certo, ci sono quelli che hanno più voglia magari di correre, di fare percorsi, certo, chi va a caccia, chi hanno usato tartufi, insomma, cioè ognuno, esatto, cioè, ci sono quelli che invece, esatto, ci sono quelli invece a cui piace collaborare naturalmente col proprietario, ma questo è una caratteristica abbastanza comune nei cani, la voglia di collaborare con noi. E poi il tipo di lavoro dipende un po' dall'indole dell'animale. Ma noi abbiamo già addestrato dei cani alla percezione della presenza del tumore polmonare nell'uomo. E anche qui le cellule tumorali sostanzialmente producono questi vox, questi composti organici che poi vengono rilasciati nei liquidi organici. Noi utilizzavamo campioni di urina, abbiamo fatto questo lavoro con l'OIEO, il quale ci forniva appunto i campioni naturalmente di urina di pazienti positivi e di invece soggetti negativi. E il cane riesce a discriminare l'urina del paziente portatore di tumore polmonare, riesce addirittura a distinguere tumori maligni rispetto a tumori benigni, quindi diciamo che la sua capacità discriminante è veramente molto elevata. Pronto? Sì? Ah no, ecco, sì. non sentivo né lei né Carlo, invece Carlo ci sei? Ah. Sì, ah, eccoti. Ci sono, e volevo anche fare una domanda, forse è sì, sicuramente una domanda un po' stupida perché non me ne intendo, ma il cane come reagisce, cioè, nel momento in cui riconosce, diciamo, sì, il virus, come lo comunica all'uomo che quello è il virus? Ma in generale si insegna al cane a riconoscere un particolare odore che gli diciamo noi qual è l'odore che lui deve riconoscere, quindi può essere quello del paziente infetto piuttosto che del paziente col tumore, piuttosto che del paziente diabetico, perché vengono utilizzati in tante occasioni. E nel momento in cui, ad esempio, noi facevamo così, quando il cane trovava il campione positivo, si sedeva davanti al campione e puntava proprio il naso contro il campione e rimaneva fermo seduto. E quindi quello era il suo perfetto modo di segnalare. Poi naturalmente, certo, ma quindi ogni animale è specializzato nel riconoscere un odore. Sì, certo, ad esempio noi abbiamo appunto addestrato questi perché cani, perché sennò poi non so più si ferma e io non so se è Covid o cocaina. No, certo. No, giusto? No, al cane si dice, certo, perché al cane si dice che cosa deve cercare. Quindi gli si fa sentire l'odore che deve cercare e il cane cerca quell'odore. Ma questo serve, diciamo, a, non lo so, tagliare i tempi, evitare esami invasivi, cioè quale scopo lo facciamo? Beh, per quanto riguarda il tumore al polmone, noi l'abbiamo fatto proprio con l'idea di poter fare un esame, un'analisi che è estremamente poco, anzi assolutamente non invasiva, posso dire, perché il cane che annusa l'urina non è sicuramente un esame invasivo, estremamente poco costoso, molto meno di una risonanza magnetica, e oltretutto un'analisi che può essere fatta anche in tumori molto precoci. Il cancro al polmone, a detta dei chirurghi dell'OIEO, quindi non a detta mia, è un tumore abbastanza difficile da diagnosticare nelle fasi iniziali, anche con una risonanza magnetica. Invece il cane riesce a percepire l'odore anche quando questi tumori sono in fase molto precoce. Per cui diciamo che non mi affiderei al 100% solo al cane, però già questo potrebbe essere una prima discriminante, e poi naturalmente dopo può approfondire le analisi in altro modo. Però sicuramente il cane riesce a discriminare, abbiamo visto che riesce a discriminare anche i tumori rispetto a qualsiasi altro tipo di patologia polmonare. Noi abbiamo messo i cani a contatto con patologie di vario tipo a livello polmonare e comunque non le riconoscevano mai come campioni positivi al tumore. E quindi qui si ritorna alla questione Covid poi alla fine, perché se parliamo, certo, di polmoni, richiudiamo su quel, certo, punto. Certo, anche se abbiamo visto che il Covid non, in realtà poi non va a colpire solo i polmoni, ma colpisce anche altri distretti. però la presenza del virus nelle cellule comunque dell'uomo sicuramente crea questi composti organici che possono essere percepiti. È chiaro che appunto io voglio essere sicura però che nel campione che io faccio annusare al cane non ci sia del virus attivo, perché anche sottoporre il cane ad annusare campioni positivi con il virus all'interno attivo... No, non è una buona idea. È vero che abbiamo detto che il cane non si ammala, perché ci sono stati dei cani che sono risultati positivi al Covid, ma in realtà non hanno sviluppato la patologia, erano solo dei carrier del virus, però anche questo non va bene, a parte che abbiamo visto che poi di questo virus si è detto un po' di tutto, no? Quindi abbiamo visto che può anche fare i salti di specie, quindi mai più vorrei che facesse un salto di specie dall'uomo al cane. Esatto, per fare questa ricerca. E comunque non voglio neanche che lo porti poi in giro, faccia da vettore. Ad altri uomini. Professoressa, esatto. Grazie molte. Allora, buon lavoro, buon proseguimento. Mariangela grazie Albertini, mille. Statale di Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria. Adesso abbiamo la viabilità. Si può fare. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, mille risorse. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci con le 5 buone notizie della settimana che abbiamo selezionato per voi. Salvati 6.000 libri di un ex funzionario in Audi, diventeranno una nuova biblioteca a Torino. Lino Anaclerio era stato infatti a lungo funzionario della casa editrice in Audi ed era un vero e proprio cultore di libri, tanto da averne collezionati circa 6.000. Ora saranno utili alla nascita di una nuova biblioteca, perché ad aprile, a 91 anni, circondato dall'affetto della moglie e del figlio, è morto Lino Anaclerio e lascia in eredità questi volumi che andranno a costituire una nuova biblioteca per bambini e ragazzi nella Barriera di Milano, antico quartiere di Torino. Al quarto posto la Puglia, dove la street art è legge. La regione Puglia ha approvato una legge che sostiene la street art. Finalmente quindi l'arte urbana sarà riconosciuta, avrà spazi dove esprimersi, renderà più belle le zone degradate periferiche della città e ogni anno le opere migliori saranno anche premiate. E una delle grandi novità di questa legge è che ogni comune dovrà redigere un elenco di spazi pubblici o privati disponibili per le opere di street art. Nel 2012 proprio a Bari, in Puglia, era stato istituito l'elenco dei writer e degli artisti di strada e adesso si arricchisce anche dei luoghi in cui questi possono esprimere al meglio la propria arte. Al terzo posto, Bellerin pianterò 3.000 alberi ogni volta che l'Arsenal vincerà una partita in questa stagione. È lo splendido gesto annunciato dal difensore spagnolo dell'Arsenal, appunto, che su Twitter ha rivelato questa sua intenzione. Ogni volta che lui e i suoi compagni di squadra otterranno un successo, pianterà 3.000 alberi. L'Arsenal dovrà disputare almeno 11 partite prossimamente tra Premier League e FA Cup. Quindi ci sono buone speranze, diciamo, per l'ambiente. Bellerin ha poi invitato tutti i fan a unirsi al suo progetto, ricordando che quando era bambino andava spesso con il nonno in Spagna e con lui giocava nelle foreste, per l'appunto piantava alberi. E al secondo posto il ritorno dei turisti stranieri in Italia. Parliamo spesso del fatto che non che quest'anno sarà un anno terribile per il turismo, però questo più che un si può fare è un speriamo che si faccia, perché nell'ultima settimana c'è stato un più 43% di turisti stranieri in Italia. Sappiamo bene che anche fino alla fine del 2020 probabilmente si registrerà un calo, ma questa ci sembra un trend positivo e quindi vogliamo sottolinearlo. Sempre il direttore dell'ENIT ha anche sottolineato che secondo le previsioni nel 2022 si tornerà ai livelli di 3 anni fa, o anzi addirittura un 2% meglio. E infine al primo posto mettiamo una notizia che riguarda l'editoria, in particolare i giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno che si costituiscono in cooperativa come strumento, ha spiegato il comitato di redazione, per farsi trovare pronti se e quando sarà necessario gestire la testata che attraversa un momento di crisi, e quindi stiamo lottando per il nostro lavoro, ha spiegato il CDR, vogliamo garantire un presidio di informazione in Puglia e Basilicata e quindi poniamo le basi per il nostro futuro. Give me five. All right. Give me five. All right. Ma alle buone notizie vogliamo aggiungere anche questa, quella della cooperazione, dell'accordo di attività scientifiche e innovazione tra CNR e KME Italy per prodotti in rame e leghe antivirali e antibatteriche. Claudio Pinassi è l'amministratore e delegato di KME Italia. A lei buongiorno intanto. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, di che cosa si tratta? Che tipo di collaborazione? Quali meravigliosi vantaggi potremo avere dal rame, che è stato uno, no, dei primi metalli che l'uomo ha conosciuto? Sì, in realtà quello che noi stiamo facendo è una cosa, non è una cosa nuova, è una cosa molto antica. Già gli egizi conoscevano 3.000 anni fa le proprietà antivirali ed antibatteriche del rame. E queste sono perfettamente note, assolutamente dimostrate. Quello che stiamo facendo noi con il CNR è quello di cercare di dare nuove forme alle possibilità di utilizzo del rame e soprattutto delle leghe di rame in campo antivirale. In particolar modo dopo la crisi del Covid-19 ovviamente abbiamo fatto tutta una serie di aggiornamenti sia con il CNR che con i laboratori di virologia dell'Università di Pisa. E il rame e le sue leghe sono fortissimi antagonisti, i migliori in assoluto in termini di superfici, per distruggere il SARS-CoV-2, cioè il virus responsabile del Covid-19. Il virus ha una pericapside, cioè una specie di involucro sferico, che quando tocca il rame fondamentalmente esplode come esploderebbe un palloncino che dovesse toccare uno spillo, ecco. Per fare un esempio molto molto semplice. No, beh, bello, questo ci ha fatto capire subito, sì. E diciamo che le proprietà antivirali del rame erano molto note già le famiglie di coronavirus precedentemente studiate negli anni passati. A febbraio è stato fatto un importantissimo aggiornamento proprio sul SARS-CoV-2, quindi proprio sul virus responsabile del Covid-19. Si è visto, come del resto ci aspettavamo, che funziona esattamente nello stesso modo, perché alla fine nel caso del coronavirus poco importa il tipo di virus, quello che conta è che questo palloncino che fa da involucro esploda immediatamente. E la grande differenza che si è visto è che mentre su altre superfici all'interno di un droplet il virus può durare per giorni, nel caso invece del rame dura per ore o addirittura per minuti, quindi praticamente in maniera passiva, in maniera intrinseca, le superfici di rame e di leghe di rame distruggono il virus in ordine di grandezza di tempo inferiori. Quindi quello che noi stiamo facendo è stiamo promuovendo tutta una serie di studi, ma anche di attività concrete direttamente su ospedali, supermercati, dove ci sono delle superfici di contatto, per far sì che queste superfici siano intrinsecamente sanificanti, autosanificanti, anche senza bisogno di una continua sanificazione con prodotti chimici, clorati o quant'altro. Quindi noi stiamo... Quindi buon lavoro, perché noi dobbiamo purtroppo chiudere, ma ci ritorniamo, ci ritorniamo, okay. Perché mi è piaciuta molto l'idea di questo virus che si spiattella sul rame. Claudio Pinassi, KME Italy, l'amministratore delegato. Carlo, ci ritroviamo domani, no? Sì signori, ciao da Carlo Gabardini, domani si può fare 8:30. Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavi.